Ventottesima traccia. Non tralasciò di trovarsi qualche volta proprio di fronte a Mr. Smith o di parlare a coloro che le stavano vicini. Emma vide ciò. Non ballava ancora. Stava venendo in su da dove era in coda e perciò ebbe agio di dare uno sguardo in giro e solo voltando un po' la testa vide tutto. Quando giunse a metà della figura della danza, l'intero gruppo le stava esattamente dietro, ed essa non permise più ai suoi occhi di guardare. Ma Mr. Elton era così vicino che essa udì ogni sillaba d'un dialogo che si svolgeva proprio in quel momento tra lui e Mrs. Weston. E si accorse che sua moglie, che stava immediatamente innanzi a lei, non solo stava ascoltando anch'essa, ma perfino incoraggiava lui con occhiate significative. La buona e gentile Mrs. Weston aveva lasciato il suo posto per venire da lui e dirgli: «Non ballate, Mr. Elton?» A cui fu data questa pronta risposta: «Ben volentieri, Mrs. Weston, se volete ballare con me». «Io no, vi darei una dama assai migliore di me. Io non sono una ballerina». «Se Mrs. Gilbert desidera ballare», fece lui, «sarò lietissimo davvero, perché sebbene io cominci a sentirmi come un vecchio marito e m'accorga che i miei tempi di ballare sono finiti, avrei sempre molto piacere di ballare con una vecchia amica come Mrs. Gilbert». «Mrs. Gilbert non ha voglia di ballare, ma c'è una signorina libera che mi piacerebbe assai di veder ballare, Mrs. Smith». «Mrs. Smith? Ah, non me ne ero accorto. Siete molto gentile. E se io non fossi un uomo sposato, ma sono passati i miei giorni di ballerino, Mrs. Weston. Vorrete scusarmi. Qualunque altra cosa io sarei lietissimo di fare ai vostri ordini, ma i miei giorni di ballerino sono passati». Mrs. Weston non disse altro, ed Emma poté immaginare con che sorpresa e mortificazione essa tornasse a sedere. E questo era Mr. Elton, l'amabile, servizievole, gentile Mr. Elton. Emma si voltò un momento. Egli si era avvicinato a Mr. Knightley, poco lontano, e si preparava a una conversazione d'impegno, mentre sorrisi di viva gaiezza venivano scambiati tra lui e sua moglie. Emma non volle guardar più. Si sentiva il cuore bollire e aveva paura che la sua faccia fosse altrettanto calda. Poco dopo fu colpita da una vista più lieta. Mr. Knightley, che faceva da cavaliere a Harriet ed entrava nel ballo. Non era mai stata più sorpresa, di rado aveva provato più letizia che in quel momento. Essa era tutta piacere e gratitudine, per Harriet e per se stessa, e non vedeva l'ora di ringraziarlo. E sebbene la distanza le impedisse di rivolgergli il discorso, la sua espressione disse parecchio, appena i suoi occhi poterono incontrarsi con quelli di lui. Il suo modo di ballare risultò essere proprio quello che lei aveva supposto, buono in sommo grado. E Harriet avrebbe potuto sembrare quasi troppo fortunata, se non fosse stato per l'increscioso incidente di prima, e per il completo godimento e per l'altissimo apprezzamento della distinzione che annunciava il suo volto raggiante. Non fu una premura sciupata con lei. Essa balzò più in alto che mai, volò più lontana dalla cintola in giù ed era tutto un fuoco di fila di sorrisi. Mr. Elton si era ritirato nella sala da gioco, con un'aria, Emma era sicura, di grande sciocco. Essa non credeva che egli fosse indurito quanto sua moglie, sebbene stesse diventando molto simile a lei. E sfogò un po' del suo sentimento osservando al suo cavaliere in modo da essere udita. «Knightley ha avuto compassione della povera piccola Miss Smith. È una gran benevolenza la sua, proprio». fu annunciata la cena. Gli invitati cominciarono a incamminarsi e si poté sentire Miss Bates da quel momento senza interruzione finché non sedette a tavola e prese il cucchiaio. «Jane, Jane, mia cara Jane, dove sei?» «Ecco la tua pellegrina!» «Mrs. Weston ti prega di metterti la pellegrina!» «Dice che teme che ci siano correnti d'aria nel corridoio, sebbene sia stato fatto di tutto. Una porta è stata inchiodata, una quantità di stuoie. Mia cara Jane, davvero, devi mettertela!» «Mr. Churchill!» «Oh, troppo gentile! Come gliel'avete bene messa sulle spalle!» «Tanto obbligata!» «Come han ballato meravigliosamente!» «Sì, mia cara, son corsa a casa, come avevo detto che avrei fatto, per aiutare la nonna a coricarsi, e son tornata qui, e nessuno ha sentito la mia mancanza nel frattempo. Mi sono allontanata senza far parola, proprio come t'ho detto. La nonna stava benissimo, aveva passato una serata incantevole con Mr. Woodhouse, un sacco di chiacchiere e tric-trac. È stato servito il tè al pian terreno, biscotti e mele cotte e vino prima che venisse via. Una fortuna meravigliosa in alcuni dei suoi tiri di dadi. E ha molto domandato di te, come ti divertivi e chi erano i tuoi cavalieri. Oh, ho detto io, non voglio togliere la parola di bocca a Jane. L'ho lasciata che ballava con Mr. George Otway. Non le parrà vero di inalartelo per filo e per segno lei stessa domani. Il suo primo cavaliere è stato Mr. Elton. Non so chi sarà il prossimo a invitarla. Forse Miss William Cox. Mio caro signore, siete troppo gentile. Non c'è nessuno che vorrebbe piuttosto... Non ho bisogno di aiuto. Signore, siete proprio cortese. Parola d'onore, Jane a un braccio e io all'altro. Fermi, fermi, restiamo un po' dietro. Mrs. Elton va. Mrs. Elton com'è elegante, magnifici perletti. Adesso la seguiamo tutti, è proprio la regina della festa. Eccoci dunque nel corridoio. Due gradini. Jane, sta attenta ai due gradini. Oh no, non ce n'è che uno, ma ero convinta che fossero due. Com'è curioso. Ero persuasa che fossero due, e non ce n'è che uno. Non ho mai veduto nulla di simile per comodità e per stile. Candele dappertutto. Ti stavo dicendo della nonna, Jane. C'è stato un piccolo disappunto. Le mele cotte e i biscotti, eccellenti anche loro, sai. Ma prima è stata servita una squisita fricassea di animelle con asparagi. Il buon Mr. Woodhouse, pensando che gli asparagi non fossero cotti abbastanza, ha rimandato tutto indietro. E non c'è niente che la nonna ami tanto come le animelle con gli asparagi. Sicché è rimasta alquanto male, ma siamo rimasti d'accordo di non parlarne con nessuno, per paura che lo venga a sapere Miss Woodhouse, a cui dispiacerebbe tanto. Ebbene, questo è magnifico, non riesco a riavermi dallo stupore. Non avrei mai supposto nulla di simile. Una tale eleganza e profusione. Non ho visto niente di uguale da quando... Dunque, dove dobbiamo sedere? Dove dobbiamo sedere? Ogni posto va bene, purché Jane non sia in una corrente. Non importa dove siedo io. Ora, raccomandate questa parte? Ebbene, davvero, Mr. Churchill, è solo che mi sembra un posto troppo bello, come volete. Quel che disponete voi in questa casa non può essere sbagliato. Cara Jane, come faremo a ricordarci della metà dei piatti per la nonna? Anche minestra, Dio mio! Non dovrei servirmi così presto, ma ha un aroma proprio eccellente e non posso fare a meno di cominciare. Emma non ebbe occasione di parlare a Mr. Knightley fin dopo cena, ma quando furono tutti di nuovo nella sala da ballo, gli occhi di lei l'invitarono ad avvicinarsi per essere ringraziato. Egli si incaloriva nella riprovazione della condotta di Mr. Elton. Era stato uno sgarbo imperdonabile, e anche gli sguardi di Mrs. Elton ricevettero la loro parte di biasimo. Essi miravano a ferire non solo Harry, disse. Emma, perché sono vostri nemici? Egli la guardava con sorridente penetrazione, e non ricevendo risposta soggiunse. Lei non dovrebbe essere adirata con voi. Io suppongo, per qualunque ragione, egli lo sia. A codesta supposizione voi, com'è naturale, non rispondete nulla. Ma confessate, Emma, che voi volevate che egli sposasse Harriet. Appunto, rispose Emma, e loro non possono perdonarmelo. Egli scosse il capo, ma insieme c'era un sorriso di indulgenza e disse soltanto: non vi sgriderò, vi lascio alle vostre riflessioni. Potete davvero affidarmi a tali adulatrici? O che il mio spirito vanitoso mi dice mai che io sono nel torto? Non il vostro spirito vanitoso, ma il vostro spirito serio. Se l'uno vi travia, son sicuro che l'altro ve ne avverte. Debbo confessare di essermi completamente sbagliata nei riguardi di Mr. Elton. C'è in lui una meschinità che voi avete scoperto e io no. E io ero convinta che lui fosse innamorato di Harriet, e ciò in conseguenza di una serie di strani abbagli. E in cambio del vostro riconoscimento di tutto ciò, vi renderò la giustizia di dire che voi avreste scelto per lui meglio di quanto non abbia fatto per sé. Harriet Smith possiede alcune qualità di prim'ordine, di cui Mrs. Elton è affatto priva. Una ragazza senza pretese, sincera, semplice, che ogni uomo di buon senso e di gusto dovrebbe preferire infinitamente a una donna come Mrs. Elton. Ho trovato che era più facile conversare con Harriet di quanto non mi aspettassi. Emma rimase molto soddisfatta. Furono interrotti dal rumore che faceva Mr. Weston invitando ciascuno a ricominciare le danze. «Su, Miss Woodhouse, Miss Otway, Miss Fairfax, che state facendo? Su, Emma, dai il buon esempio alle compagne. Tutti pigri, tutti addormentati». «Io son pronta», disse Emma, «appena mi si vuole». «Con chi ballerete?» chiese Mr. Knightley. Emma esitò un momento e poi rispose: «Con voi se mi invitate». «Volete?» disse lui offrendo il braccio. «Sicuro, avete dato prova di saper ballare e sapete che non siamo davvero tanto fratello e sorella da renderlo sia pur un pochino sconveniente». «Fratello e sorella, ma che?» Questa piccola spiegazione con Mr. Knightley fece a Emma un piacere considerevole. Fu uno dei ricordi gradevoli del ballo, e per assaporarlo la mattina dopo si mise a passeggiare nel prato dinanzi a casa. Era immensamente felice che si fossero intesi così bene riguardo agli Elton e che le loro opinioni sia sul marito che sulla moglie fossero tanto simili. E il suo elogio di Harriet, la sua concessione a favore di lei, erano in special modo lusinghieri. L'impertinenza degli Elton, che per alcuni minuti aveva minacciato di sciupare il resto della sua serata, era stata l'occasione per una delle più grandi soddisfazioni della festa. Ed essa sperava un altro lieto risultato: la cura dell'infatuazione di Harriet. Dal modo in cui Harriet parlava dell'episodio prima di abbandonare la sala da ballo, essa nutriva forti speranze. Era come se gli occhi della ragazza si fossero aperti all'improvviso ed ella riuscisse a vedere che Mr. Elton non era la creatura superiore che aveva creduto. La febbre era passata ed Emma aveva ben poco da temere che il polso s'accelerasse di nuovo per via di una cortesia dannosa. Emma contava sul malanimo degli Elton per provvedere tutta la disciplina di marcata trascuranza che sarebbe stata ulteriormente necessaria. Harriet ridiventata ragionevole, Francesco non troppo innamorato e Mr. Knightley non propenso a bisticciarsi con lei, che estate felice le si preparava. Essa non doveva vedere Francesco quella mattina. Le aveva detto che non poteva permettersi il piacere di fermarsi a Harfield, poiché doveva trovarsi a casa verso il mezzodì. Non le dispiacque. Avendo esaminato, disposto e sistemato tutte queste cose, Emma stava appunto avviandosi a rientrare in casa con lo spirito rinfrescato, sì da andare incontro alle esigenze dei due ragazzini, nonché del loro nonno, quando s'aprì il gran cancello di ferro del viale delle carrozze. Ed entrarono le due persone che meno si sarebbe aspettata di vedere insieme. Frank Churchill, che dava il braccio a Harriet, proprio Harriet. Bastò un momento per convincere Emma che era accaduto qualcosa di straordinario. Harriet appariva bianca e spaventata, ed egli cercava di rincuorarla. Il cancello di ferro e la porta di casa non erano 20 metri distanti. Presto tutte e tre furono nell'atrio, e Harriet immediatamente s'accasciò su una sedia e svenne. Una giovane signora che sviene deve essere fatta rinvenire. Ci sono domande che attendono risposta e sorprese che vanno spiegate. Tali avvenimenti sono molto interessanti, ma la sospensione che essi causano non può durare a lungo. Pochi minuti misero Emma al corrente di tutto. Miss Smith e Miss Bickerton, un'altra pensionante di Mrs. Goddard, che era stata pure al ballo, erano uscite insieme e avevano preso una strada, la strada di Richmond, la quale, sebbene in apparenza abbastanza frequentata, sì da essere sicura, le aveva portate a uno spavento. Circa mezzo miglio oltre Highbury, facendo una svolta brusca e profondamente ombreggiata da olmi da ambo i lati, diventava per un tratto considerevole assai appartata. E quando le giovani signore si erano inoltrate per un po', avevano improvvisamente scorto, a breve distanza dinanzi a loro, su una proda erbosa più estesa, una comitiva di zingari. Un bambino che stava all'erta era venuto verso di loro per chiedere l'elemosina. E Miss Bickerton, spaventatissima, aveva dato in un grande urlo. E gridato a Harry di seguirla, era corsa su per una proda ripida. Aveva scavalcato una piccola siepe in cima e, per una scorciatoia, alla belle meglio, era tornata a Highbury. Ma la povera Harriet non aveva potuto seguirla. Aveva parecchio sofferto di crampo dopo il ballo, e il suo primo tentativo d'arrampicarsi su per quella proda aveva portato un tal ritorno del dolore da ridurla assolutamente senza forze. E in codesto stato, e atterrita, oltre ogni dire, era stata obbligata a restare. Come si sarebbero comportati i vagabondi se le giovani signore fossero state più coraggiose, deve essere lasciato all'ipotesi. Ma un tale invito all'aggressione non poteva trovarli esitanti. E Harriet era stata ben presto assalita da una mezza dozzina di bambini, capeggiati da un pezzo di donna e da un ragazzone, tutti vociferanti e impertinenti nell'aspetto, sebbene non del tutto nelle parole. Sempre più atterrita, essa aveva immediatamente promesso del denaro e, tirando fuori la borsa, aveva dato loro uno scellino e li aveva pregati di non chiedere di più e di non maltrattarla. Indi era riuscita a camminare, sebbene solo lentamente, e stava allontanandosi. Ma il suo terrore e il suo borsellino erano tentazioni troppo forti, ed essa era stata seguita, o piuttosto circondata, da tutta la masnada che chiedeva di più. In questo stato l'aveva trovata Frank Churchill. Lei che tremava e cercava di patteggiare, essi che urlavano ed erano pieni di insolenza. Per un caso fortunatissimo, la sua partenza da Highbury era stata tanto ritardata da farlo giungere in soccorso di lei in quel momento critico. L'amenità della mattina l'aveva indotto ad andare a piedi, lasciando che i cavalli gli venissero incontro per un'altra strada, un miglio o due oltre Highbury. Ed essendogli capitato di prendere in prestito un paio di forbici da Miss Bates la sera prima e di essersi dimenticato di restituirle, era stato obbligato a fermarsi alla porta di lei e ad entrare per pochi minuti. Perciò aveva fatto più tardi di quanto aveva previsto e, andando a piedi, era rimasto invisibile a tutta la comitiva finché era stato vicinissimo. Il terrore che la donna e il ragazzo avevano creato in Harriet fu alla loro volta provato da essi. Frank li aveva lasciati del tutto spaventati. E Harriet, aggrappandosi a lui con ogni energia e quasi incapace di parlare, aveva avuto appena la forza di giungere a Hartfield prima di perdere i sensi. Era stata un'idea di lui quella di portarla a Hartfield, non gli era venuto in mente alcun altro posto. A questo si riduceva tutta la storia, quale fu narrata da lui e da Harriet, appena essa ebbe recuperato i sensi e la favella. Egli non osò rimanere più di quanto bastò per vederla rimessa. I vari contrattempi non gli permettevano di perdere un minuto di più. E dopo che Emma si fu impegnata ad assicurare a Mrs. Goddard che Harriet era sana e salva e ad avvertire Mr. Knightley che c'era nelle vicinanze una tal masnada di gente, egli partì con tutte le benedizioni di gratitudine che essa poté esprimere per l'amica e per se stessa. Un'avventura come questa, d'un bel giovane ed una leggiadra giovinetta che si trovano insieme in tali circostanze, non poteva mancare di suggerire certe idee al cuore più freddo e al cervello più posato. Così almeno la pensava Emma. Avrebbe potuto un filologo, un grammatico o perfino un matematico vedere ciò che aveva visto lei, essere stato testimonio della loro comparsa insieme e aver udito il loro racconto di quel che li aveva così uniti, senza sentire che le circostanze avevano lavorato per renderli particolarmente interessanti l'uno all'altra? Quanto più dunque doveva una fantastica come lei infiammarsi di congetture e pronostici? Specie poi con quello sfondo di speranze che la sua mente aveva già prestato. Era una cosa davvero straordinaria. Nulla di simile era mai accaduto prima a nessuna giovinetta del luogo, per quel che ella ricordava. Nessun incontro, nessuno spavento del genere. E adesso era proprio accaduto a quella determinata persona, e proprio a quell'ora, quando precisamente l'altra persona si trovava di passaggio a soccorrerla. Certo, era straordinario. E sapendo come ella sapeva le favorevoli disposizioni di spirito di ognuno dei due in questo periodo, la cosa la colpiva ancora di più. Egli desiderava di superare la propria attrazione per Emma, mentre Harriet stava appena guarendo dalla sua mania per Mr. Elton. Pareva che ogni cosa cospirasse alle più interessanti conseguenze. Non era possibile che l'avvenimento non presentasse l'uno all'altra in una luce quanto mai favorevole. Nella conversazione di pochi minuti che essa aveva avuto con lui, mentre Harriet era stata parzialmente in delicto, egli aveva parlato con una sensibilità divertita e incantata del terrore della ragazza, della sua ingenuità, del fervore col quale gli aveva afferrato il braccio ed era rimasta aggrappata. E proprio alla fine, dopo che Harriet ebbe fatto il suo racconto, egli aveva espresso, nel modo più caloroso, la sua indignazione per l'abominevole follia di Miss Bickerton. Ogni cosa doveva tuttavia seguire il suo corso naturale, senza essere forzata o secondata. Lei non avrebbe fatto un passo o lasciato cadere un accenno. No, ne aveva avuto abbastanza di intromettersi. Non ci poteva essere nulla di male in un progetto meramente passivo. Non era più d'un desiderio. A nessun patto essa si sarebbe spinta più oltre. La prima risoluzione di Emma fu di tenere il padre all'oscuro di ciò che era successo, rendendosi conto dell'ansia e dell'allarme che ciò avrebbe provocato. Ma presto sentì che l'occultamento sarebbe stato impossibile. In mezz'ora tutta Highbury era al corrente. Era proprio il genere d'avvenimento da tenere occupati coloro che chiacchierano di più, i giovani e il popolino. E tutti i giovani e i servitori del luogo, in men che non si dica, gavazzavano nella terribile notizia. Il ballo della notte prima sembrava dimenticato per via degli zingari. Il povero Mr. Woodhouse tremava seduto dov'era. e, come aveva previsto Emma, non fu contento finché non gli permisero di non avventurarsi al di là del vivaio. Gli fu di qualche conforto che durante il resto della giornata molti mandarono a informarsi come stavano lui e Miss Woodhouse, poiché i vicini sapevano che gli amava che si chiedessero sue notizie, nonché Miss Smith, ed egli ebbe il piacere di rispondere che tutti stavano così e così. E questo Emma lo lasciò correre, sebbene non fosse esattamente vero, perché lei stava benissimo e Harriet presa poco come lei. Come figlia di un uomo fatto così, Emma aveva in genere uno stato di salute piuttosto infelice, poiché non sapeva che cosa volesse dire essere indisposti, e se non pensava lui a inventare malattie per lei, essa non poteva far figura in un messaggio. Gli zingari non aspettarono l'opera della giustizia. Si dileguarono in 448. Le signorine di Ivory avrebbero potuto passeggiare di nuovo sane e salve prima che cominciasse il loro panico, e l'intera storia presto diminuì alle proporzioni di una faccenda di poca importanza, eccetto che per Emma e i suoi nipoti. Nell'immaginazione di lei non perdette terreno, e Harry e John non smettevano di chiedere ogni giorno la storia di Harriet e degli zingari, e persistevano a correggerla se essa variava il minimo particolare dal racconto originale. Erano passati pochissimi giorni da questa avventura quando una mattina Harriet venne da Emma con un pacchettino in mano, e dopo essersi seduta e aver esitato un po', cominciò a questo modo. «Miss Woodhouse, se avete un momento libero, avrei qualcosa da dirvi, da farvi una specie di confessione. E poi, sapete, non ci penserò più». Emma rimase assai sorpresa, ma la pregò di parlare. Nei modi di Harriet c'era una serietà che la preparò, non meno delle sue parole, a qualcosa di straordinario. «È mio dovere, e sono sicura che è mio desiderio», continuò, «di non avere riserve con voi su questo punto. Siccome, fortunatamente, sotto un certo riguardo, io sono tutt'altra persona, è molto opportuno che voi abbiate la soddisfazione di saperlo. Non voglio dire di più di quanto è necessario. Ho troppo vergogna di essermi lasciato andare come ho fatto. E oso credere che mi capite». «Sì», disse Emma. «Spero di sì». «Come ho potuto montarmi la testa così a lungo», esclamò Harriet con calore. «Pare una follia. Adesso non vedo in lui niente di straordinario. Non mi importa se io lo incontro o no, se non che delle due cose preferirei di non vederlo, e in verità farei un lungo giro pur di evitarlo. Ma non invidio affatto sua moglie, non l'ammiro nell'invidio come ho fatto prima. Essa è affascinante, immagine, via dicendo, ma la ritengo di pessimo carattere e sgradevole. Non dimenticherò mai il suo sguardo l'altra notte. Tuttavia, vi assicuro, Miss Woodhouse, non le auguro nessun male. No, che siano sempre felici insieme. Ciò non provocherà in me un altro momento di pena. E per convincervi che ho detto la verità, ora io distruggerò quel che avrei dovuto distruggere da un pezzo, quel che non avrei dovuto mai conservare, lo so benissimo. E, in così dire, arrossiva.